con Cristina Piccino del Manifesto e del Filmmaker Festival per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica. Cristina, ben trovata. Ben trovato a te, Federico, ben trovati a tutti e tutti voi. Partiamo da qualche considerazione sulla sala, il suo futuro, sulla direzione che sta prendendo il cinema. Sicuramente quest'anno è stato un anno importante perché dopo 2 anni di pandemia, in cui si diceva che la sala era definitivamente spenta come tipo di produzione, come tipo di riferimento anche per le visioni, no? A favore delle streaming, a favore delle piattaforme, i dati ci dicono che invece le cose sono andate decisamente meglio. Ci sono stati i due grossi impatti dei film fatti uscire nella stagione estiva americana, ovvero Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Nolan, che hanno fatto degli incassi molto alti, soprattutto Barbie, sicuramente grazie a un acuto marketing della distribuzione, ma insomma questa cosa è stata un po' il traino di una sorta di rimessa in moto, al di là delle qualità, dei pregi, dei difetti dei singoli film. Lo stesso si può dire ad esempio in Italia con un film come C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Io non ne sono assolutamente tra i fan, anzi, però riconosco il fatto che avere visto sale molto piene di persone di tutte le età, non esattamente soltanto cinefili o spettatori avvertiti, appassionati, sicuramente anche questo è stato una cosa importante perché comunque, come dice, da un movimento, anche se intorno a un singolo film, poi magari c'è anche un movimento intorno a tutto il resto. Sicuramente per quello che riguarda la sala, e non soltanto in Italia, perché se uno va a vedere poi ogni paese, compresa la Francia, che fino a qualche anno fa veniva additata come l'esempio più luminoso per il cinema e per il suo stato, in realtà anche lì le cose non sono propriamente felici, se si considera che negli ultimi 2 mesi a Parigi hanno chiuso almeno 3 sale storiche importanti. E dicevo che nonostante questo, le cose sicuramente ancora complicate, sicuramente c'è la questione dello streaming e delle finestre che insomma così strette portano le persone a stare a casa, e poi secondo me c'è anche il fatto che comunque la cesura rappresentata dalla pandemia e anche dai cambiamenti di abitudine di fruizione andrebbe considerata appunto nelle operazioni di marketing e di lancio dei singoli film, che non possono essere tutto uguali, che hanno bisogno di diversi accompagnamenti, diverse strategie e forse anche dell'invenzione di un modo di fare e di gestire la distribuzione un po' diverso. I tuoi 5 preferiti? Per me è sempre difficilissimo, queste top 10 di fine anno sono veramente un po' il mio incubo, perché di fatto poi mi dico sempre delle cose importanti. Per me è stato un anno strano, ad esempio anche facendo la selezione del Festival Filmmaker, sicuramente ci sono state cose che, ma tutte le cose che abbiamo scelto sicuramente ci sono piaciute, però mi è sembrato che a volte rispetto ad altri anni c'erano delle cose che poi sul momento ti piacevano, quando sei a vederle, non so, ci trovi sempre che non erano un vero colpo di fulmine. Comunque, tra i miei 5 film c'è La Chimera di Alice Lovato, che mi è piaciuto moltissimo, è un film pieno di energia, pieno di invenzione. Io sono davvero felice che sia una regista, non solo con questo talento cinematografico, ma con questa capacità di inventare a ogni film degli immaginari capaci di confrontarsi poi con la nostra storia, con il nostro presente, ma mai in modo dogmatico e appesantito. Foglie al vento di Gaurismati mi è molto piaciuto nella sua semplicità, nella sua capacità di tenere insieme delle questioni molto attuali e al tempo stesso di non troppo ripetere, di trovare un tono che non abbia appunto la ripetitività del regista che arriva a fare tanti film, ma che pur mantenendo la propria cifra poetica trova sempre dei piccoli scarti, delle piccole variazioni. e Fire di Petzold, forse non è dei suoi il mio senso preferito, ma trovo che conferma comunque Christian Petzold come entità piuttosto importante nella nostra contemporaneità. Non è uscito in sala, non so se vale lo stesso nella sua classifica, però un po' circuitato questo che abbiamo presentato al festival, No Tricot, Our Body di Claire Simon, che è una bellissima riflessione per immagini su temi quest'anno, in questi ultimi mesi dell'anno in particolare, molto attuali, che riguardano le donne, la rappresentazione delle donne, lo sguardo femminile, il rapporto con i corpi, la sessualità, insomma, degli argomenti che sono fondamentali e che lei riesce a trattare in film attraverso tante storie diverse, con grande delicatezza e con estrema profondità. E mi è molto anche piaciuto Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Trovo che anche alla seconda visione sia un film che mantiene una sua forza e sa trattare dei temi, ma in modo molto libero e sorprendente, costruendo appunto un'epica grande. Sempre non uscito in sala, ma è sicuramente un film molto importante, anche se è passato forse un po' in sordina la mostra del cinema di Venezia, è il nuovo film di Shinza Tsukamoto, Okage, che è un regista giapponese che ormai è diventato quasi un classico dopo l'irruenza dei primi film, si confronta con la storia del Giappone e confermando anche lui un talento visivo e visuale veramente. Cristina, allora ci sentiamo nel corso dell'anno e auguri. Tanti auguri anche a te, tanti auguri a chi ci ascolta e auguri buon anno.